24 mattino estate con Irene Zerbini. Questo tuffo radiofonico accompagnerà ancora una settimana di queste mattinate a Radio 24. Venerdì si sta per concludere un ciclo. Tra poco avremo Giulia Crivelli con la rassegna stampa. Buona giornata, un'altra volta da Irene Zerbini. Durante il nostro dibattito delle 8:30, la trasmissione a cui potete partecipare con i vostri stimoli, le vostre domande, le vostre richieste d'approfondimento, affronteremo una tematica legata all'integrazione, una tematica molto delicata perché attraversa la vita di giovani donne, a volte bambine, giovanissime. Una ragazza pakistana di 16 anni ha tentato il mese scorso di uccidersi bevendo acido muriatico per non subire l'imposizione del padre e del fratello che avevano combinato le nozze con un connazionale che lei non voleva. È stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e poi il tribunale dei minori ha deciso con un provvedimento di allontanare padre e fratello dalla famiglia. Non possono avvicinarsi alla giovane che per ora è assistita dalla madre. Ma questa è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che riguarda moltissime giovani donne. Anche Mara Carfagna, ministro delle pari opportunità, è intervenuta sulla vicenda parlando di denuncia. Bisogna avere il coraggio di denunciare, bisogna avere il coraggio di rivolgersi alla polizia. Non subite, ha detto, lo stalking. Ma quali sono le situazioni che portano a questo? Si possono veramente arginare? Riguarda spesso questo fenomeno ragazze nate e cresciute in Italia che hanno naturalmente un contrasto rispetto alle vedute, al modo tradizionale, a volte religioso, ma non sempre, visto che queste situazioni hanno caratterizzato imposizioni anche su donne italiane fino a 30 anni fa dei loro padri e dei loro genitori. Parleremo di nozze combinate, di esperienze che arrivano dalla provincia di Reggio Emilia e non solo, di tentativi di rivolta di ragazze messe in protezione alle 8:30 per i vostri SMS 349-238-6666 e poi vi daremo anche il numero di telefono. Ora la rassegna stampa. In primo piano. Giulia Crivelli, bentornata, ben ritrovata negli studi. Buongiorno a te Irene e a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano cosa troviamo? Ancora economia? Sì, purtroppo è proprio un'apertura non solo del Sole 24 Ore ma di tutti i giornali, un'apertura prettamente economica perché ieri è stata l'ennesima giornata nerissima su tutte le borse del mondo con l'Italia che tra l'altro è stata la maglia nera in Europa e poi sulle prime pagine anche l'attentato in Israele dei razzi contro gli autobus, 14 morti, purtroppo sembra essersi reinnescata la spirale di violenza in Medio Oriente. E grande rilievo dunque anche per notizie che arrivano dall'estero, Israele, la Siria. Ti seguiremo fino in fondo, a più tardi Giulia. Grazie Irene, ancora buongiorno a tutti. Cominciamo appunto dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Oggi, visto il tonfo delle borse di ieri, il titolo torna a essere, come è capitato qualche volta nei giorni scorsi, a 8 colonne. C'è un titolo che occupa l'intera prima pagina del Sole 24 Ore ed è timori di recessione, tempesta sulle borse. Milano, abbiamo detto, maglia nera in Europa, infatti ha ceduto il 6,15%, che è una percentuale davvero alta. Non ha scherzato neppure Wall Street, che ha invece perso il 4,46%. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo due editoriali di cui vi leggerò alcune righe, ma sono veramente, secondo me, fanno un po' il punto su quello che è successo nelle ultime due settimane per capire appunto dove siamo in questo momento. Uno è di Alessandro Plateroti, che è uno dei vice direttori del Sole 24 Ore. Il titolo è Dai mercati l'urlo alla politica. L'altro è di Carlo Bastasin, editorialista del Sole 24 Ore, che riguarda invece la questione prettamente europea, legata ancora al vertice franco-europeo dell'altro giorno, di cui proprio Carlo Bastasin aveva scritto, forse lo ricorderete. Il titolo del suo editoriale è Svolta vera o restino su Marte, il riferimento è alla cancelliera tedesca e al presidente francese Sarkozy. Vi leggo la prima parte dell'editoriale di Alessandro Plateroti. Annunci, smentite, altri annunci. Minacce di nuove tasse sulla finanza e di ritorsioni contro gli operatori, gli speculatori cattivi e persino contro le società di rating, a cui oggi non si perdona di guardare senza sconti ai conti degli stati dopo averle moralmente condannate per non aver fatto altrettanto con i bilanci di Lehman Brothers e con i mutui subprime. E poi troppe parole in libertà sul declino americano e sulla governance dell'euro, sul futuro di un'Europa che non c'è più e su un mercato finanziario ancora senza regole globali. sociali, destabilizzato da incertezze politiche e squilibri economici che hanno reso ingovernabile persino il sistema valutario, ormai in balia delle svalutazioni competitive americane e della resistenza della Cina ad accettare le responsabilità che le derivano dal suo ruolo guida nel commercio mondiale. Con questo scenario davanti, agli occhi e sugli schermi dei computer, c'è poco da meravigliarsi se il panic selling sia tornato sui mercati, con la fuga degli investitori dalle borse e dal rischio e con la corsa sfrenata del risparmio verso rifugi più sicuri. Infatti, forse per voi per la maggior parte di voi è superfluo ricordarlo, però se una borsa aperta vuol dire che appunto le vendite sono state molto maggiori degli acquisti, segnale di sfiducia verso tutte le azioni. Per questo Alessandro Praterotti parla di panic selling, cioè vendite dovute al panico. L'editoriale di Alessandro conclude così: in ultima analisi sarebbe quasi opportuno sfruttare questa occasione per abbandonare la difesa ideologica dell'europeismo di comodo che è stata finora e che ha solo legittimato negli ultimi 4 decenni un cocktail imbevibile di economia keynesiana, centralizzazione burocratica e finto solidarismo sia sociale che industriale. Se l'obiettivo forzato del pareggio di bilancio produce solo nuove tasse, la situazione può solo peggiorare. Per far ripartire l'Europa e per calmare i mercati, le parole d'ordine non bastano, serve che qualcuno si alzi e parli di crescita. E sull'Europa, sulla questione europea, torna appunto Carlo Bastasin: svolta vera o restino su Marte. Anche qui vi leggo le prime righe. Forse è meglio che Merkel e Sarkozy restino davvero su Marte, perché lo ricordo magari per chi si era perso l'altro editoriale di Carlo Bastasin, gli era sembrato talmente inconcludente il vertice, questo vertice franco-tedesco, che li aveva appunto paragonati a due leader che, anziché guardare cosa sta succedendo davvero sulla Terra, sembravano aver preso questa vacanza su Marte, e quindi appunto l'inconcludenza delle loro dichiarazioni e del vertice stesso. Quindi forse è meglio che Merkel e Sarkozy restino davvero su Marte o in qualunque sia l'universo politico parallelo dove hanno inscenato 2 giorni fa il loro ultimo imbarazzante vertice. La realtà della crisi negata dai due leader si è vendicata sotto forma di un nuovo grave peggioramento dell'instabilità economica e finanziaria. Conclude Carlo Bastasin, nella soluzione politica della crisi i problemi bancari in Francia e Germania sono rimasti nascosti, come la faccia oscura della luna. Forse ha una certa coerenza il fatto che Merkel e Sarkozy osservino tutto da Marte. E tra l'altro, a questo proposito, approfitto per tornare su un titolo che avevamo letto ieri, il titolo del Wall Street Journal sulla Fed che aveva messo gli occhi sulla liquidità delle banche. Io avevo frettolosamente pensato che fosse anche una questione fiscale, in realtà appunto era forse ancora più grave. La Federal Reserve sta guardando con molta attenzione alla liquidità delle banche europee negli Stati Uniti, perché teme che non siano appunto sufficientemente affidabili, e questa è stata probabilmente una delle cause delle cadute di borsa di ieri, cioè questo ulteriore segnale di sfiducia da parte della banca centrale verso le banche europee. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale di Sergio Romano, che torna sulla questione dei troppi parlamentari e di nuovo propone, lo hanno fatto in tanti, chissà se mai qualcuno verrà ascoltato, propone di dimezzarli. Sapete che il nostro è un bicameralismo quasi perfetto, mentre in altri paesi tra la Camera Alta e la Camera Alta e Camera Bassa, nel nostro caso Camera dei Deputati e Senato, ci sono sostanziali differenze. Da noi non è proprio così, e quindi a maggior ragione molti propongono di dimezzare il numero dei parlamentari. Scrive Sergio Romano: di tutti i peccati che la classe politica italiana non cessa di commettere, quello di avantieri, una seduta di Palazzo Madama a cui hanno partecipato soltanto 11 senatori, è probabilmente uno dei più veniali. In altre circostanze avremmo sorriso e perdonato. Oggi fatichiamo a capire. Il problema non è la maggiore o minore presenza di parlamentari per un'occasione puramente procedurale. Il vero problema è quello della totale insensibilità di una larga parte del ceto politico per i sentimenti e gli umori del Paese. Non è necessario essere osservatori di mestiere per sapere che gli italiani sono arrabbiati. Vi dicevo che l'altra notizia che domina tutte le prime pagine dei giornali, c'è anche sul Sole 24 Ore naturalmente, è quella dell'attentato di ieri in Israele, blitz dei terroristi in Israele, e c'è stato questo attacco a un bus con razzi e ordigni esplosivi. Il premier israeliano Netanyahu ha subito ordinato una rappresaglia su Gaza, ed è per questo appunto che ho parlato di una dell'innescarsi di una nuova spirale di violenza, perché all'attentato è subito seguito un bombardamento da parte delle forze militari israeliane sulla striscia di Gaza. È interessante da questo punto di vista l'approfondimento di Bernardo Valli, che parte dalla prima pagina di Repubblica, dove comunque il titolo principale è Incubo, recessione, borse a picco, ma poi c'è la fotonotizia di alcuni soccorritori che portano via i feriti dal luogo dell'attentato, e l'editoriale di Bernardo Valli, l'analisi di Bernardo Valli, si intitola La polveriera del Sinai. Ve ne leggo le prime righe. Tanti elementi inducono a credere che l'attentato avvenuto ieri in Israele sia da collegare agli avvenimenti in corso in Egitto, dove la primavera araba appare agitata e confusa. Questo non significa che i rivoluzionari del Cairo siano da ritenere i diretti responsabili del più micidiale attentato da più di 2 anni nello Stato ebraico. Non è quello che penso né sospetto, ma la situazione che si è creata in Egitto potrebbe averlo favorito. Gli avversari della primavera araba potrebbero essere proprio i promotori, e comunque sono loro che ne possono trarre profitto. Le vampate di terrore gettano discredito sulla difficile e tormentata svolta democratica e ridanno fiato agli islamisti radicali, colti di sorpresa dall'insurrezione libertaria di piazza. Dalla prima pagina della Stampa, stessa apertura, con esattamente come sul Sole 24 Ore un grafico con queste frecce tutte minacciosamente verso il basso, che indicano i ribassi delle borse intorno al mondo. Il titolo: borse panico da recessione, il panic selling appunto di cui parlava Alessandro Plateroti sulla prima pagina del Sole 24 Ore. L'Europa brucia 300 miliardi, il peggior crollo dal 2009. Ma dalla prima pagina della Stampa vi segnalo un'analisi in particolare sulla Lega. La solitudine di Bossi è il titolo dell'analisi di Giovanni Cerruti. A ben guardare non è il comizio cancellato per l'angoscia da contestazioni, che il ministro Calderoli nega e i leghisti del galore confermano, e nemmeno le proteste del presidente della provincia di Belluno, che sfida l'ordine padano di obbedir tacendo e si presenta in albergo con la bandiera a lutto, e neanche la delusione di troppi dei suoi sindaci che questa manovra propria non la tollano. Questa volta bastano le immagini rilanciate ieri sera da qualche TG: Umberto Bossi circondato da poliziotti e scorte sulla terrazza dell'albergo, che non si fa vedere, che non vuol sentire il grido della strada a lavorare. È una delle questioni sulla politica di cui si discuterà sicuramente mano a mano che la maggioranza dovrà cercare di capire quali sono le modifiche che si possono fare alla manovra. Una delle questioni è appunto l'indebolirsi della leadership della Lega di Umberto Bossi. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Abbiamo guardato le prime pagine di Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica e Stampa. Sono i titoli che dominano le pagine di oggi, sono quelli sulle borse, che ieri sono tutte crollate intorno al mondo, e l'attentato di Israele, l'attentato in Israele, il primo da 2 anni, il più grave da 2 anni, che ha reinnescato la spirale di violenza che tormenta il Medio Oriente. Passiamo alla prima pagina dell'Avvenire, che ha lo stesso, esattamente come gli altri quotidiani, 2 titoli sono questi: le borse e l'attentato in Israele, ma c'è anche naturalmente molto spazio alla giornata mondiale della gioventù che è iniziata, che c'è stata ieri a Madrid, o meglio, si chiama giornata mondiale della gioventù, i festeggiamenti però durano più giorni, e quindi ieri però è stata la giornata dell'arrivo di Papa Benedetto XVI, e quindi il virgolettato dell'Avvenire per fare la cronaca di questa giornata è: costruite sulla roccia, il Papa ai giovani, non vergognatevi del Signore, economia, regole etiche. Vi leggo le prime righe dell'articolo di Salvatore Mazza, l'inviato a Madrid, che si intitola Il nodo centrale. Nel giorno dell'ennesimo crollo delle borse, e mentre rassegnati ci prepariamo a tirare di un altro buco la cinghia già troppo stretta dei nostri striminziti bilanci familiari, Benedetto XVI torna ancora una volta a spiazzarci. In volo verso Madrid, verso una consapevole marea di giovani che chiama la nostra speranza, ci ricorda alcune semplici regole, tanto fondamentali quanto troppo a lungo dimenticate, come il fatto che l'economia non può essere lasciata alle autoregolamentazioni dei mercati, ma ha bisogno di una ragione etica che la fondi per funzionare per l'uomo, che al centro di essa deve esserci l'uomo e non la si può misurare secondo il principio del massimo profitto, ma in base al bene di tutti, che implica la responsabilità dell'altro in tutte le sue dimensioni nazionali e sovranazionali, in quanto, per esempio, non è tollerabile ignorare chi in altre parti del mondo muore di sete e di fame e non ha futuro. E come in moltissimi altri giorni, oggi l'Avvenire è di nuovo l'ultimo quotidiano a occuparsi appunto della carestia nel Corno d'Africa. La notizia è che la FAO ha stanziato 118 milioni di euro per Somalia, Kenya e sud del Sudan. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo anche la rubrica di Gianfranco Ravasi, Mattutino. Oggi si chiama Ironia e sarcasmo. La citazione è tratta, pensate, da un testo di Erodoto, quindi scritto nel V secolo avanti Cristo, ed è questo: se un uomo decide di occuparsi senza tregua solo di cose serie e non si abbandona ogni tanto allo scherzo, senza accorgersene diventa pazzo o idiota. E Gianfranco Ravasi, che come sapete sceglie queste poche righe di un testo e poi le commenta, scrive: ogni tanto è necessario fare uno stacco dalla frenesia degli impegni. Come si dice curiosamente in alcune antiche lingue orientali, bisogna inghiottire la saliva, cioè avere un attimo di tregua da una vita quasi nevrotica. Si deve essere in grado di sostare e di sorridere. L'ironia in questo ci aiuta, perché genera il sorriso e smitizza certi comportamenti paludati o eccessivi. C'è però una frontiera, ed è quella che separa l'ironia lieve dal sarcasmo pesante e distruttore. A un sacerdote cattolico inglese del secolo scorso, Robert Knox, si attribuisce questa battuta: l'ironia corre con la lepre, il sarcasmo insegue con i cani. E per correttezza vi segnalo anche che il direttore dell'Avvenire, Marco Tarquini, oggi scrive una corsivo a pagina 2 del suo giornale, perché ieri l'avevamo letta anche noi. L'Avvenire aveva ricevuto una lettera di Paco Ignacio Taibo, lo scrittore spagnolo, che si diceva molto favorevolmente stupito da questa invasione pacifica e gioiosa di Madrid da parte dei giovani cattolici, lui che si definiva uno scrittore super laico. Quella lettera in realtà era un falso, e così Marco Tarquini ne dà conto. Naturalmente il suo breve corsivo si intitola Un brutto falso e tante verità, come vedremo poi sul Fatto Quotidiano, che ha questa, anzi ve lo leggo subito, il Fatto Quotidiano dedica a questa vicenda del falso una pagina, perché l'autore del falso è Tommaso De Benedetti, che non è nuovo a questa attività. È praticamente la sua unica attività, cioè lui si dedica a mandare ai giornali false interviste, a costruire falsi profili su Facebook, e tra le sue vittime ci sono anche Umberto Eco e Philip Roth. E questo, vabbè, Tommaso De Benedetti, ognuno si sceglie l'attività che appunto che più lo diverte, suppongo. Però questo signore ne ha fatto praticamente un lavoro, cioè anziché scrivere articoli o editoriali veramente di suo pugno, imita lo stile degli altri, riuscendoci molto bene in effetti. Dal Foglio vi segnalo un altro commento alla Giornata Mondiale della Gioventù: la generazione non irrilevante. I giovani della Giornata Mondiale della Gioventù, tra indulgenza ed economia visti dagli esperti. Sapete che sul Foglio pochissimi articoli sono firmati, e questo per esempio è appunto un articolo non firmato, quindi vi leggo l'ultima parte. Ieri sera, nel suo appuntamento quotidiano su TV 2000, Dino Boffo, che tra l'altro è il precedente direttore dell'Avvenire, ha fatto notare come con la Giornata Mondiale della Gioventù il Papato Romano, cioè una delle istituzioni più longeve della storia, monumentale e monolitica, ha dato vita a una delle manifestazioni più sprint della postmodernità. L'istituzione si è saldata al carisma e ha generato il carisma. Anche dal punto di vista scientifico, proprio delle dinamiche istituzionali, è un caso che meriterebbe di essere studiato. In questo senso, ha detto il direttore della TV della CEI, rispondendo a un telespettatore che vedeva nella Giornata Mondiale della Gioventù solo del marketing religioso, la Chiesa è un'istituzione strana, non ha paura dei giovani, ma nemmeno li lusinga, piuttosto dice loro: siate anticonformisti, non lasciatevi intruppare, sorprendete chi su di voi ha delle attese banali. Dalla prima pagina del Messaggero, che ha gli stessi titoli degli altri quotidiani, quindi le borse a picco e l'attentato in Israele, vi segnalo dalla prima pagina, altri giornali riportano questa notizia ma non con così tanto risalto, il blitz della Guardia di Finanza ieri, che ha scoperto l'ennesima truffa dei falsi invalidi. Ciechi alla guida di automobili e titolari di assegni sociali con patrimoni milionari. È il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza che ha individuato 3.000 truffatori, falsi invalidi e indigenti che ottenevano sussidi da enti pubblici con un costo di 90 milioni di euro soltanto nei primi 7 mesi del 2011. Ed è il Riformista, forse, che ha lo schemino riassuntivo più chiaro su questa questione dei falsi. Il titolo dell'articolo del Riformista di Edoardo Petti lo trovate a pagina 9 del Riformista, è nei primi 7 mesi dell'anno INPS truffata per 48 milioni di euro. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza quantificano l'ammontare delle pensioni di false invalidità e degli assegni a favore di finti poveri. E c'è uno schemino dove appunto si analizza regione per regione tutte le pensioni di invalidità revocate, perché la Guardia di Finanza ha scoperto che appunto erano in realtà delle truffe, erano pensioni di invalidità date a chi non ne ha diritto. Parlavamo prima del problema Lega o dei problemi della Lega, e il giornale titola su questo. L'articolo principale è: gli ostaggi della Lega. Bossi continua a bloccare ogni ipotesi di riforma delle pensioni. Si tratta su un aumento dell'IVA sul quoziente familiare. L'articolo principale del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti è di Vittorio Feltri, che del quotidiano è stato direttore ma ora è solo editorialista. L'ho preciso perché a volte mi confondo, perché poi Vittorio Feltri è stato anche direttore di Libero, poi è tornato al giornale. Comunque Vittorio Feltri, vi leggo solo le prime righe perché analizza proprio la figura di Umberto Bossi, quello che è stato, quello che è, quello che potrà essere. Umberto Bossi è, o almeno è stato, un politico di razza, nel senso che su un finire degli anni Ottanta fu il primo a comprendere il declino dei due partiti maggiori dell'epoca, la DC e il PC, e a predisporsi al cambiamento avvenuto tra il 93 e il 94. Da Libero il titolo, anche qui prettamente politico: Silvio, due punti, cambio la manovra. Berlusconi si sveglia, ha varato un caminetto per riscrivere il decreto. Il contributo di solidarietà io non lo volevo. Qui in questo caso l'articolo della prima pagina è di Maurizio Belpietro, direttore di Libero, perché la supertassa non aiuta nessuno ma affonda l'Italia. Vi leggo però anche dalla prima pagina le prime righe di un articolo della rubrica di Filippo Facci, che si chiama Appunto, ed è legato a quello che scriveva sulla prima pagina del Corriere Sergio Romano, cioè i costi della politica e i tagli auspicabili al numero di parlamentari. Filippo Facci si concentra sul caso della Sicilia, che sapete di parlamentari da sola ne ha 90, perché l'Assemblea regionale siciliana è una specie di parlamentino a sé stante. Scrive Filippo Facci: bisognerebbe prendere la Sicilia, commissariarla restante e cambiare la Costituzione per normalizzare la sua amministrazione parassita. Altro che il ricorso presentato da un gruppo di consiglieri siciliani che mirano a mantenere il doppio stipendio alla faccia di una sentenza della Consulta e soprattutto alla faccia nostra, che non possiamo neppure linciarli. In luglio l'Assemblea siciliana si è assicurata contro il rischio insurrezione e hanno fatto bene, visti gli incredibili privilegi di cui godono, dai pranzi a 9 euro al contributo sepoltura di 5.000 euro in caso di morte, tutto vero. E questo da parte di una classe dirigente che costa 496.400 euro annui a consigliere. Più, ricorda Filippo Facci, dei parlamentari di Montecitorio. La Padania, sulla Padania non è proprio in questo è forse l'unico esempio rimasto di quotidiano di partito, perché non c'è traccia di quelli che pure sono, a detta di tutti, dei segnali di problemi interni e di leadership della Lega. Il titolo della Padania è: Bossi, una via per gli enti locali. Dal Cadore il Senatur, dopo aver salvato le pensioni, si può trovare una soluzione per il territorio. A fine mese, manifestazioni dell'ANCI. Calderoli smentisce le voci di uno scudo fiscale bis, lunedì di segreteria politica della Lega a Milano sulla manovra. Quindi tutto bene, secondo la Padania. Il manifesto, l'Europa brucia, il manifesto, sapete, ha questa attenzione per la copertina, c'è sempre una specie di fotomontaggio. Oggi c'è una banconota da 10 euro che appunto brucia, il riferimento naturalmente è alle borse che hanno perso così tanto ieri in Europa, ma non solo. Dalla pagina, me la sono persa, c'era un'intervista che volevo segnalarvi sul manifesto ma me la sono persa. No, volevo segnalare invece da pagina 3 del manifesto uno studio del Guardian, interessante, l'ho trovato solo sul manifesto, che spiega come a Londra ci sia un record di senza lavoro nei quartieri dei riots, cioè quei quartieri dove ci sono state la maggior parte delle proteste. Quindi sicuramente c'è un legame, come spesso accade, tra la disoccupazione e le proteste. L'articolo è di Cristina Cecchi e lo trovate appunto a pagina 3 del manifesto, mentre a pagina 4 c'era l'intervista di cui vi parlavo a Maria Cecilia Guerra, che è docente di scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia. Torna il manifesto Francesco Paternò sulla questione dello scudo fiscale, che però avete visto, secondo Calderoli, è in realtà tramontata. Il governo studia un nuovo scudo fiscale, cosa ne pensa? L'idea nasce dall'ipotesi che ci siano ancora capitali all'estero che potrebbero beneficiarne, ma ci avevano detto che il precedente scudo aveva fatto rientrare tutto, perché chi avesse mantenuto all'estero capitali sarebbe stato rintracciato e avrebbe pagato multe salate. Se tutto questo non è avvenuto, perché dovremmo fare un altro scudo per gli evasori e fargli pagare il 5, 6 o 7%? Non sarebbe meglio accertarli e fargli pagare il 40%? Negli Stati Uniti o in Gran Bretagna non si fanno scudi. Da noi chi ha pagato il 5% sui capitali non dichiarati si è messo a posto con l'Agenzia delle Entrate per non subire altri accertamenti. In America dicono all'evasore: da domani ti trovo, questa è l'ultima chiamata. Prima ti rimetti in pari con le imposte sul capitale non pagate, dunque il 40%, poi paghi le imposte che non hai evaso sugli interessi e solo allora tutto finisce. Un'altra storia. La cosa curiosa è che poi l'Unità in prima pagina ha un intervento di Maria Cecilia Guerra, che appunto il manifesto intervista e che è docente di scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia. Il contributo di Maria Cecilia Guerra sull'Unità si intitola Equità e propaganda e si focalizza in realtà più su quell'imposta straordinaria, che possiamo anche chiamare patrimoniale, che è stata proposta sui redditi più alti, quelli altissimi. Abbiamo visto ieri ancora un'intervista su Repubblica a Luca Cordero di Montezemolo, che propone da qualche giorno questa super patrimoniale, potremmo chiamare così, o patrimoniale sui super patrimoni. Vi segnalo, prima delle notizie sul traffico, la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ieri c'è stato, l'avete sentito nel GR, questo mini torneo tra Juventus, Inter e Milan, che è stato vinto dall'Inter, che ha vinto questo trofeo team. Il titolo della Gazzetta è una specie di gioco di parole: Eto Milito. Eto, naturalmente scritto in un altro modo, è il giocatore che quasi sicuramente se ne andrà in Russia. Sono, secondo sempre la Gazzetta che ci aggiorna su questa vicenda, ci sarebbero ancora 5 milioni su cui non riescono a mettersi d'accordo. E poi però la notizia, sempre legata in un qualche modo all'Inter, che trova grande spazio su tutti i giornali, ma in particolare sulla Gazzetta, è l'ultima trovata, diciamo, di Mourinho, ex allenatore dell'Inter, che siccome ieri ha perso, il suo Real Madrid ha perso col Barcellona, ha aggredito il vice di Pep Guardiola, l'allenatore del Barcellona, e gli ha messo praticamente un dito in un occhio, anzi più di un dito, era una specie di pugno in faccia che poi è finito in un occhio. In primo piano. E rieccoci con la rassegna stampa di oggi. Ancora buongiorno a tutti. Dopo aver visto i titoli di prima pagina, vi segnalo qualche articolo dall'interno. Oggi i giornali sono ricchissimi, è venerdì, vi consiglierei, so che insomma è una cosa inusuale che facciamo in generale noi, solo, quasi solo noi giornalisti, di comprarne tanti, però magari compratene qualcuno in più e nel weekend potete vedere questi approfondimenti. Soprattutto, davvero mi sembra un momento cruciale per l'economia, e oggi sono davvero tante le analisi. Torniamo un attimo sul Sole 24 Ore, che a pagina 11 ha una pagina dedicata un po' al welfare, alla riforma delle pensioni, con un'analisi di Elsa Fornero, che su questa questione è una dei massimi esperti italiani. Ma vi segnalo l'intervista a Mario Baldassarri, che è presidente della Commissione Finanze del Senato, è stato in passato vice ministro dell'Economia. Addirittura propone di alzare l'età di pensionamento non a 65 anni per tutti, ma a 70 anni. Io sono favorevole a un aumento graduale dell'età pensionabile fino al limite di 70 anni. Questa ulteriore, probabilmente definitiva, riforma del nostro sistema previdenziale non deve essere fatta per fare cassa, ma per dare un equilibrio di lungo periodo al sistema e garantire una maggiore equità intergenerazionale. Dal Corriere della Sera vi segnalo, abbiamo parlato ricordato i disordini di Londra, e con questo articolo che c'è sul manifesto che riguarda uno studio del Guardian che collega la disoccupazione giovanile anche a questi disordini che ci sono stati in alcune zone di Londra e in altre parti dell'Inghilterra. Adesso pare questa protesta dei giovani soprattutto pare estendersi alla Germania. L'ho trovato questa notizia solo sul Corriere. Berlino brucia le auto di lusso e le utilitarie. Angela Merkel teme il contagio dopo i disordini a Roma ed è stata messa una taglia di 5.000 euro sugli incendiari. Il precedente, ricorda il Corriere, è del 2005, quando lo stesso tipo di protesta, cioè incendiare le auto, si era verificata nelle banlieue francesi, non solo di Parigi ma anche delle altre grandi città francesi, e furono bruciate nel 2005 centinaia di auto. Finora a Berlino sono 44 in sole tre notti. Dalla Repubblica e il Corriere vi segnalo due articoli su questa vicenda, che secondo me è molto divertente, di Abercrombie & Fitch, questo marchio di abbigliamento casual americano, che due giorni fa ha detto al protagonista del reality Jersey Shore: non, per piacere, non mettere più i nostri vestiti, le nostre camicie, perché per noi è una specie di contropubblicità, ti diamo dei soldi se non lo fai. Lui ieri molto anche spiritosamente ha risposto su Twitter: ma secondo me voi avete un altro problema. Io fossi in lui mi sarei anche un po' forse offesa, ma insomma lui non si è offeso, anzi l'ha presa a sorridere. Giuseppe Videtti sulla Repubblica torna su questa questione, l'articolo ai super caffoni della TV che dividono l'America. Questo reality, infatti, per chi non l'ha visto, in Italia va in onda su MTV, è appunto un reality sui caffoni, sui tamarri, non lo so, dice così, io lo trovo abbastanza divertente, ma sicuramente non una cosa particolarmente raffinata. Sul Corriere della Sera l'articolo invece è di Michele Farina: fenomenologia del tamarro, il più temuto dagli stilisti. Ci sono tre foto di questo famigerato, si chiama Mike Sorrentino, e lui da solo si è dato il nickname The Situation, quindi Mike The Situation Sorrentino. Ci sono tre foto: in uno ha una felpa della nazionale italiana e di origini italoamericane, e nell'altra è a torso nudo ma con una camicia Abercrombie, e nell'altra ancora è completamente a torso nudo. Trovo divertente, credo che sia la prima volta in assoluto la storia, almeno da quando io seguo un po' il settore della moda, che un marchio appunto dice: per piacere, non usarci, perché non ci fai un favore, anche se poi forse è comunque una forma di pubblicità. Dalla prima pagina di Repubblica, con un'inchiesta che poi occupa tre pagine all'interno, vi segnalo l'articolo di Natalia Aspesi: niente plastica, siamo donne, la rivolta delle star, basta chirurgia plastica. Meno male che almeno certe attrici intelligenti anglosassoni giurano che mai si faranno ritoccare dai crudeli maghi della chirurgia. Poi bisogna vedere se manterranno la promessa, perché ci sono dive e semplici signore che hanno perso ogni fisionomia a furia di farsi ritagliare. Oltre all'articolo di Natalia Aspesi, che continua a pagina 39, ce n'è anche uno di Angelo Acquaro da New York, perché appunto Kate Winslet, l'attrice americana premio Oscar, ha dato un po' il via a questa campagna anti-chirurgia plastica. Dalla Stampa vi segnalo una pagina, pagina 16, sul caso di René Megli, un imprenditore svizzero che ha un'azienda, un imprenditore di Basilea, un'azienda che si occupa di spedizioni, dove lui ha deciso di assumere solo donne perché le ritiene superiori. Questo dice, sostiene la superiorità delle donne in ufficio. Dalla Stampa vi segnalo anche un articolo di Marco Alfieri: qui aumenta tutto e produrre in Cina non conviene più, le grandi imprese fanno marcia indietro. È sicuramente una questione interessante questa della delocalizzazione al contrario, o delocalizzazione di ritorno. Molte aziende italiane, Marco Alfieri ne ha fatto una piccola ricognizione, avevano iniziato a delocalizzare in Cina e si sono resi conto che poi non è così conveniente, per problemi di flessibilità, di capacità di rispondere prontamente alle richieste del mercato, che spesso è quello europeo, e anche degli aumenti del costo del lavoro, per esempio in Cina. L'Avvenire, come nei giorni scorsi, ha un supplemento di 8 pagine dedicato alla Giornata Mondiale della Gioventù. È molto interessante perché ci sono tantissime testimonianze, approfondimenti, e questa grande kermesse così gioiosa, e dove ieri è anche intervenuto Papa Benedetto, legandola poi all'altra grande questione, che è la questione economica. Insomma, solo leggendo l'Avvenire credo se ne può avere un'idea così completa. L'Avvenire, come vi avevo detto prima, L'Avvenire anche oggi è l'unico giornale che torna sulla tragedia dimenticata, così la definisce anche L'Avvenire, dell'Africa. La FAO ha stanziato 118 milioni per la Somalia, e il direttore generale della FAO, Diouf, dice: aiutiamo la gente a costruirsi un futuro. Oltre la metà di questi fondi sono destinati alle famiglie. Dal Manifesto vi segnalo una, secondo me, un'interessantissima inchiesta di due pagine su quello che è il lavoro dell'editor, che è uno di quei false friend della lingua inglese. L'editor non è l'editore, ma colui che si occupa un po' di preparare i testi che arrivano nelle case editrici per la pubblicazione. A volte sono necessarie piccole modifiche, a volte modifiche molto più grandi. Ci sono una, due, tre, quattro, cinque testimonianze proprio dirette. Sono testi non interviste, non articoli, ma testi, per esempio, di Antonio Franchini, che è il direttore editoriale della narrativa Mondadori, di Victoria von Schirach, che è la scout di Random House Germania, cioè colei che cerca i nuovi autori, o di Michele Luzzato, l'editor per la saggistica della Bollati Bolinghieri. Per chi è appassionato di editoria, o magari ambisce a lavorare nell'editoria, o per chi semplicemente è appassionato di libri, sono due pagine veramente interessanti. Vi segnalo un'ultimissima pagina di approfondimento su un'altra questione di cui si parla così a intermittenza, che è quella della cocaina, della diffusione della cocaina in Italia. Lo spunto di cronaca è che è stata sequestrata una tonnellata di cocaina che vale 300 milioni di euro, e poi c'è un articolo di Gianni Barbacetto come spiega che a Milano ogni anno siano smerciate 12.000 dosi e che me ne faccia uso un milanese su 6, cioè il triplo della media nazionale. Io finisco qui, Irene, qui vicino a me. Ci tengo a ringraziarvi tutti perché è il mio ultimo giorno e magari ci risentiremo prossimamente, però questa era la mia incursione nella rassegna stampa dell'estate di Radio 24, finisce qui. Ringrazio veramente tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che hanno mandato sms, anche quelli di critica, anzi in particolare. Io li ho visti però. Li ho letti tutti e alcuni mi hanno fatto molto riflettere su come debba essere fatta una rassegna stampa, e davvero vi ringrazio veramente tutti, e vi consiglio ancora una volta, specie nel weekend, adesso che abbiamo ancora tutti un pochino più tempo con questi ritmi un po' rallentati, acquistate i giornali, sono cibo per la mente, aiutano tutti a formarci un'opinione, per la cronaca c'è la radio, c'è internet, ma i giornali hanno ancora, secondo me, questa funzione di aiutarci a capire le cose. Potresti tenere un corso nell'università su come fare una rassegna stampa. No. Questo è interessante, poi lo approfondiamo fuori onda, perché vorrei capire con quali criteri tu scegli. Arrivano sempre tantissimi messaggi di sostegno rispetto a questa tua caratteristica, a questa tua selezione, quindi vi svelerai qualche segreto. Giulia, naturalmente ti ritroviamo in realtà domani già sulle frequenze di Radio 24 con English 24 per la tua consueta trasmissione. La mia passione, sì. L'inglese. A che ora? Oddio, a 19:15. English 24 con Giulia Crivelli, una voce che vi siete abituati a sentire presto al mattino e che ritroverete. Noi alle 8:30 andremo invece a esplorare uno dei nodi più delicati dell'integrazione in tutti i paesi, cioè l'integrazione delle donne. Al di là degli aspetti legislativi, quello che spesso emerge quando poi convivono più culture è naturalmente la sensibilità diversa rispetto ad alcune tematiche che all'apparenza sembrano lontane dalla politica e in realtà forse ne costituiscono il nervo più vitale. In questo caso andremo a prendere in esame un fenomeno in crescita che riguarda donne e bambine. Stiamo parlando dei matrimoni combinati, matrimoni forzati. Spesso queste ragazze vengono portate nel paese d'origine e fatte sposare con un connazionale secondo la tradizione o l'usanza di quella cultura. Ovviamente non è un fenomeno che riguarda tutti i membri di una singola nazione, ma quelli più tradizionalisti, quelli più arretrati, possiamo dirlo, come fino a 20-30 anni fa ancora le donne erano costrette a ribellarsi in alcune parti d'Italia alle nozze decise dalla famiglia con dei gesti clamorosi come la fuitina, che è rimasto molto praticato, purtroppo una memoria anche molto recente dei nostri costumi. Comunque racconteremo delle storie e soprattutto ci interrogheremo su quali sono gli strumenti giuridici per la difesa di queste ragazze, di queste donne e bambine, spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, sono minorenni, e come questi strumenti giuridici potrebbero essere rafforzati. 24 mattino estate con Irene Zerbini. E iniziamo subito con i numeri di telefono: 800 24 00 24 per i vostri commenti, riflessioni, testimonianze, a partire dalle 8:30. Di che parleremo oggi? Matrimoni imposti. Attenzione, c'è una differenza tra matrimoni imposti e combinati, una realtà delicatissima, in crescita sembra in Italia. C'è un sindaco particolare che si è speso in prima persona per mettere sotto protezione delle ragazze giovanissime che rischiavano di fare questa fine. Naturalmente è un'azione delicata che ha bisogno di strumenti legislativi di sostegno e che ha bisogno soprattutto di una cultura nuova. Di questo parleremo tra pochissimo. Prima però andiamo a incontrare loro, i corrispondenti stranieri. Visti da fuori. Che solennità cominciare con Mozart, uno dei più bei regali forse che la cultura tedesca abbia fatto al mondo. Intanto speriamo che l'abbia gradito tu, carissimo Tobias Spiller, buongiorno. Buongiorno. Tobias Spiller è corrispondente della Die Tage Zeitung, oggi nostro ospite. Hai gradito questo regalo musicale innanzitutto? Sì, sì, della Frankfurter Allgemeine Zeitung, sì, anche se... Certamente Mozart, vabbè, è viaggiato in Italia e ha avuto un bel po' di cultura italiana, ma non siamo tutti con Mozart tutti i giorni, sì. Non siamo allineati con Mozart tutti i giorni, sì. Sento già il tuo spirito tagliente di critica. Comincerei a chiederti innanzitutto da quanti anni sei corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung e da quanti anni racconti l'Italia, soprattutto dal punto di vista economico e politico, anche se non esclusivamente. Sono 19 anni e se non ho sbagliato il conto adesso sono 13 governi. 19 anni e 13? 19 anni e 13 governi, ecco come fanno i conti corrispondenti stranieri. Tobias Spiller, gli ultimi pezzi che hai scritto, concentrati immagino sui tentativi d'Italia di calmare i mercati, su cosa ti sei speso? Certamente come corrispondente specializzato nell'economia al momento mi dedico molto a tutte le questioni di manovra, crisi, dubbi, speculazione intorno all'Italia. E da un lato ci tengo a dire che l'Italia a breve termine è abbastanza stabile, ma dall'altro bisogna sempre anche dire che a lungo termine o cresce il PIL più velocemente del debito o l'Italia ha un problema. Ti sei concentrato sui buchi dunque? Sì, ho parlato anche non solo di buchi di bilancio, ma anche della lotta del ministro del Tesoro contro i buchi di informazione. Mi è spiaciuto abbastanza che in questa situazione di crisi l'Italia non abbia comunicato molto, qualche volta abbia comunicato proprio niente, anche quando c'erano delle informazioni anche positive da comunicare, e questo certamente è stato dannoso perché proprio questo governo comunica ancora meno di altri di fronte ai corrispondenti che hanno bisogno di più inquadratura, di più informazione, forse dei soliti addetti al lavoro, perché il corrispondente è di solito uno o sono due di un giornale, mentre certamente un giornale italiano può mandare tanti esperti in giro che già sanno tutte le premesse. Detto questo, carissimo Tobias, tu hai sottolineato un aspetto molto importante, cioè la professionalità con cui, per esempio, tanti governi stranieri gestiscono la comunicazione. Ci sono gli spin doctor, come sappiamo, reclutati in continuazione nelle fila di coloro che vengono reputati dalle diverse amministrazioni i talenti migliori. Ci sono dei professionisti che scrivono discorsi, ci sono addetti alla comunicazione altamente qualificati. I nostri governi sembrano non dare un grande risalto, una grande importanza a questo ruolo cruciale, non solo governi ma anche opposizioni. In questo caso tu hai parlato del ministro del Tesoro e delle Finanze, che in questo momento è in difficoltà con la comunicazione, in un momento in cui invece la comunicazione poi diventa cruciale per passare dei messaggi all'estero. Quali messaggi, tu hai fatto riferimento a contenuti anche positivi che non hanno avuto a causa di questa situazione il risalto che avrebbero meritato? Quali sarebbero questi elementi positivi che l'Italia non ha comunicato? facciamo qualche esempio, che la Grecia quando è andato in crisi era in un cieco vizioso, così c'era il problema del grande buco nella finanziaria, delle finanze pubbliche, poi fiducia nei mercati, poi uno spread, così un premio di rischio molto alto che di nuovo è diventato un buco, così un circolo vizioso veramente andando giù molto velocemente. In Italia invece è così, se uno vede la situazione con un po' di calma, che a breve termine, anche se questo premio di rischio di fronte a titoli tedeschi cresce molto, l'Italia non deve soffrire un grande buco nella finanziaria, delle finanze pubbliche, almeno a breve, perché il debito italiano è spalmato su molti anni. E se questo si comunica, certamente si vede che non c'è tanto di parallelo tra la Grecia e l'Italia. Che l'Italia si calmerebbero gli animi. Addirittura abbiamo avuto un consiglio dal nostro amico e corrispondente tedesco su come dare un'immagine migliore del paese, senza ricorrere ad artifici di marketing, ma semplicemente basandosi sulla verità. Ricominciano con Mozart, è un regalo per te, anche se gli ascoltatori ci dicono che Mozart era austro-ungarico e non tedesco, e quindi non è un regalo della cultura tedesca. Come rispondi, Tobias Spiller, a questa ovviamente una provocazione? Vabbè, Mozart era di Salisburgo, abbastanza vicino alla Baviera dalla quale sono io, così. Non ci facciamo problemi su questo in Europa. Abbastanza vicino, sei stato molto diplomatico, grazie. Dankeschön, Tobias Spiller. Buona giornata. Tobias Spiller è il corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung, oggi è stato con noi per la rubrica Visti da Fuori, ritornerà lunedì mattina alle 8:20. Ventiquattro mattino estate. Avere una vita davanti e chiedersi cosa cercare. Per il mio matrimonio sarà una grande festa. Cambierò 3 vestiti diversi, di 3 colori diversi. Un giorno giallo, un giorno rosa, un giorno azzurro. E la festa durerà 3 giorni. Domani sarò un vagabondo. Bello, no? Peccato che a descrivere il suo imminente matrimonio sia una bambina di 13 anni che poi ammette in questa email di non conoscere nemmeno il marito scelto per lei dalla famiglia. Buongiorno e benvenuto a Raul Dauli, sindaco di Novellara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Raul Dauli è il sindaco di quella cittadina in provincia di Reggio Emilia che più volte è stata indicata come il modello di integrazione del territorio italiano, nella quale alla fortissima presenza di immigrati si accompagna una rete di servizi efficienti che raggiungono tutti, immigrati e no, a grandissima compartecipazione di chi ci vive, grande rete di volontariato. Ebbene, proprio il sindaco di questa cittadina si è trovato a mettere in protezione in qualche modo delle ragazze. Cos'è successo, Dauli? È successo che negli ultimi tempi è aumentata una domanda da parte delle mie concittadine, di alcune ragazze, la maggior parte maggiorenni, 20 anni comunque, chiedono al sindaco di aiutarle per sottrarsi a questo condizionamento del matrimonio forzato. E quindi mi è capitato in questa esperienza di rendermi conto di questo fenomeno, probabilmente intercetto solo la punta dell'iceberg, però ecco, sto apprendendo tanto e sto mettendo a punto una serie di politiche, di ricerche, di misure per contrastare da una parte e aiutare questo bisogno nuovo di questa richiesta di diritti, questo bisogno da parte di queste ragazze. Stiamo parlando di matrimoni imposti e dunque queste ragazze, naturalmente siamo a conoscenza e dei nomi e dei documenti, abbiamo raccolto diverso materiale che non condivideremo con i nostri ascoltatori proprio per la tutela e per l'incolumità di queste giovanissime donne. Queste ragazze cresciute in Italia, nate in Italia addirittura in alcuni casi, raggiunta una certa età si sono trovate a dover accontentare la famiglia. C'è stato un vero e proprio rapimento? No, loro ci sono ogni storia è una storia diversa. Spesso si assiste all'inganno da parte dei genitori su false promesse, magari la nonna sta male, andiamo a trovarla. Quindi si trova la giustificazione di un viaggio, però è un viaggio senza ritorno, dove poi troppo tardi la ragazza scopre che il progetto era un altro, quello di un matrimonio forzato. Noi dobbiamo pensare a come se fossero delle nostre figlie o delle nostre sorelle cresciute qua, nate qua, che improvvisamente si trovano in un mondo che non conoscono, in una situazione di costrizione contro quei valori, quelle aspettative di sviluppo, di vita, di benessere che anche tramite la scuola noi abbiamo favorito anche ad alimentare in qualche modo. Una ragazza pakistana di 16 anni ha tentato di uccidersi bevendo acido muriatico per non subire l'imposizione del padre e del fratello che avevano combinato le nozze con un connazionale che lei non voleva. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, assistita solo dalla madre, e al padre e al fratello è stata data un'ingiunzione di non avvicinarsi. Questa è la punta dell'iceberg, come ha detto lei, sindaco, e recentemente questa storia si è conquistata le cronache nazionali. In realtà è difficile poi quantificare quante persone nel segreto della famiglia vivano questo tipo di costrizione, ma noi ci stiamo chiedendo quali strumenti giuridici ha una donna, una giovane donna, una minorenne in Italia per tutelarsi da questo tipo di violenza. Ugo Pastore, buongiorno. Il dottor Ugo Pastore, il procuratore capo del Tribunale dei minorenni di Bologna, lei ha avuto a che fare con questi casi, anzi ha lavorato fianco a fianco anche con le segnalazioni che le sono pervenute dal sindaco Raul Dauli, oggi nostro ospite. Quali sono gli strumenti giuridici a cui voi potete ricorrere nel caso di minori in queste condizioni? Diciamo che per quanto riguarda i minori, gli strumenti giuridici sia nell'ordinamento interno che in quello internazionale sono ormai noti da molti anni, sia dalla Convenzione di New York del 1989, che l'Italia ha recepito nel 91 e che per la prima volta riconosceva diritti personali e inalienabili di ogni minore, come di ogni persona umana, e compreso il diritto ad essere ascoltati in tutte le procedure che li riguardano, in base al grado di discernimento, fino alla Convenzione di Strasburgo successiva, che diciamo anche nel contesto europeo ha ulteriormente rafforzato questo tipo di diciamo di tutela. Quindi è evidente che ogni qualvolta perviene una segnalazione diretta o indiretta di situazioni di coercizione o di abuso di quelle che sono quella che è la potestà parentale da parte dei genitori, spesso attraverso i servizi sociali o le amministrazioni locali o sindaci come particolarmente sensibili come quello di Novellara, a questo punto noi immediatamente ci attiviamo in base alle informazioni acquisite, proponiamo ricorso al tribunale per ottenere un provvedimento che metta in sicurezza il minore e gli dia una possibilità di chiaramente di uno sviluppo che sia conforme alle sue capacità e alle sue aspirazioni. Cioè di fatto lo allontanate dalla famiglia? Quando è necessario c'è l'allontanamento, dopodiché c'è un lavoro che viene fatto sulla famiglia per responsabilizzarlo, ma laddove la famiglia non dovesse accedere a questo tipo di contributo da parte dei servizi, da parte del territorio, è chiaro che a questo punto al minore va nominato un legale rappresentante, un tutore, che quindi a questo punto ne tuteli gli interessi e i diritti. C'è una campagna in corso contro questi matrimoni imposti, gestita proprio dall'UCOI, cioè dall'Unione delle Comunità Islamiche in Italia. Ringrazio per la sua presenza Kadia Del Monte. Buongiorno, vicepresidente dell'UCOI. Buongiorno, Kadia. Buongiorno. Come si può quantificare? Patrizia Cadigia. Come si può quantificare il fenomeno sul territorio? Cioè esistono dei numeri su... No, non esistono, è molto difficile perché è una cosa che avviene appunto nel segreto delle famiglie e noi abbiamo iniziato questa campagna, che è una campagna che è stata diffusa in tutta Europa partendo dal comune di Rotterdam, proprio perché sappiamo che il fenomeno può essere presente in quanto è presente in tutte le altre comunità che sono negli altri paesi europei e che si è manifestato e non solo, anche in Nord America, negli Stati Uniti, in Canada, dove, dove ci sono alcuni tipi di comunità, soprattutto quelle di tipo orientale, no? Il Pakistan, l'India, è più diffuso in certe zone, ecco, che in altre. Quindi non è solo una questione legata alla religione, è proprio legata alla tradizione, questo lei sta sottolineando. Sì. Per esempio, è una cosa legata alla tradizione di certi paesi, tradizioni culturali che però qualche volta vengono associate impropriamente alla religione, per questo il lavoro che faccio io, per esempio, sì, e che vorrei fare anche insieme con i comuni, cosa che finora mi è risultato molto difficile. Perché? Insomma. Che ostacoli ha trovato? Mi spieghi, Khadija. Ah, non lo so, anche a Novellara io ho chiesto diverse volte, ad esempio, no? Dove c'è il sindaco Raul. Ho chiesto all'assessore diverse volte, è difficile fare un lavoro insieme quando per esempio si appartiene a Lukoi, che ci sono molto pregiudizi su questa associazione. E, comunque. Raul Dauli, sindaco, lei è stato chiamato in causa. Qui stiamo parlando di un discorso ovviamente di emancipazione e tutela dei diritti di minorenni. È difficile organizzare delle iniziative di sensibilizzazione? No, noi è un tema abbastanza nuovo perché ci siamo dedicati nella nostra prima parte delle politiche di integrazione e multiculturalismo proprio alla valorizzazione delle culture, delle religioni, a tramandare un'idea di città in cui i cittadini possono vivere insieme. Oggi si pone un tema nuovo, un fronte nuovo, che di fronte a questo multiculturalismo che noi continueremo a portare avanti perché è l'unica idea di futuro che abbiamo del mondo. Non possiamo tollerare che i valori costituzionali, le leggi e le nostre ragazze, i nostri ragazzi che sono cittadini di Novellara vengano sottratti alla tutela dei valori costituzionali. Questo è un confine oltre il quale non possiamo andare, quindi deve esserci molta chiarezza da parte di tutti, da parte dei mediatori culturali, da parte dei servizi, da parte delle forze dell'ordine, tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo di aggiornamento, di ricerca per capire dov'è il rischio, per capire come si fa prevenzione e non avere nessun tipo di giustificazione rispetto a un relativismo culturale e religioso. Perché a che partito appartiene lei, Raul? Io sono del Partito Democratico. No, siccome qualcuno scrive sarà della Lega questo sindaco, non c'è una contraddizione tra la sua apertura verso gli immigrati, voi siete il paesino gioiello dell'integrazione in Italia, e il suo poi sottrarre di fatto le figlie alla famiglia che ne vuole imporre il matrimonio forzato? No, io vedo invece una coerenza di fondo, cioè noi non possiamo raccontare investire in processi di crescita e di integrazione e poi dopo girarci dall'altra parte di fronte ai problemi. Io poi ho grande rispetto per le culture, considero le religioni una cultura e non mi pare che nessuna religione al mondo dica di fare violenza alle donne o di fare mutilazioni genitali o di far lavorare i bambini, nessuna religione. Io proprio parlando l'altro giorno con una di queste ragazze gli ho chiesto ma come mai tuo papà, addirittura tua mamma, ecco, arrivano a dei comportamenti di questo tipo, sono convinti che sia il Corano, che sia la religione? Mi ha detto questa ragazza, assolutamente no, mio papà non l'ha mai letto il Corano, io lo leggo tutti i giorni. Quindi diciamo che anche questa forma di tutela di queste ragazze per me è il massimo del rispetto che io posso dare proprio al valore del riconoscimento multiculturale e multireligioso. 24 mattino estate. E torniamo a parlare di matrimoni imposti. Solo quando si arriva alla tragedia che fa scalpore, che colpisce gli animi, ci si domanda cosa si è fatto davvero per la tutela, ancora una volta, delle fasce deboli, siano bambini, siano donne o siano in entrambe, ognuna di queste situazioni, giovani ragazze costrette a un matrimonio forzato. Come avete sentito spesso, l'espediente è quello di un viaggio nel paese d'origine, eppure ci sono degli obblighi che attengono anche alle rappresentanze diplomatiche espresse chiaramente dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, per cui le rappresentanze diplomatiche o le sedi consolari o di ambasciata sul territorio devono agevolare la protezione, l'emissione di visti quando è necessario di queste persone, se rapite e portate all'estero, e devono essere messe nelle condizioni il prima possibile di rientrare in Italia. Dottor Ugo Pastore, quali sono le leggi e gli obblighi, per esempio, delle istituzioni rispetto alla tutela di questi minorenni e no? Ma facciamo riferimento a quelli che vengono già portati all'estero. È chiaro che in questo caso è necessaria comunque una collaborazione internazionale, spesso soprattutto in paesi con i quali appunto le relazioni diplomatiche sono più difficoltose, e spesso sono paesi di questo tipo quelli che sono interessati poi da questo tipo di fenomeni, laddove si riescono ad attivare i canali internazionali e soprattutto laddove tempestivamente sia stato adottato un provvedimento giudiziario che metta sotto tutela il minore. A questo punto è chiaro che è più facile riuscire ad attivare queste procedure e eventualmente riuscire poi a tutelare il minore anche dopo che sia stato allontanato. Però sicuramente ci sono problematiche di volta in volta differenti, e diciamo a volte sono problematiche che non consentono l'effettività, diciamo, nell'esecuzione dei provvedimenti adottati. Visto che stiamo parlando spesso di seconde generazioni, in altri paesi europei bisogna passare dall'ambasciata prima del viaggio ed esprimere il proprio consenso a un eventuale matrimonio, cioè se si va all'estero per sposarsi, per esempio in Gran Bretagna, bisogna passare dall'ambasciata e dire: sto andando a Islamabad, per esempio, per contrarre matrimonio. Nel caso questo passaggio non sia stato fatto, una volta contratto il matrimonio all'estero non viene riconosciuti rientrati in Europa. Un dispositivo che in qualche modo, non perfetto, però tutela la volontà dei contraenti matrimonio, non trova? Sì, indubbiamente un tipo di procedura del genere può avere una efficacia per il controllo di questi fenomeni, ma è un'efficacia relativa, perché alla fine il riconoscimento formale del matrimonio anche in Italia a volte per determinate condizioni può avere un relativo significato. Sì, cioè, pensiamo per esempio ai matrimoni nell'ambito della cultura Rom, anche di minori che in base alla legislazione italiana non potrebbero contrarre matrimonio perché hanno un'età inferiore agli anni 16, perché per gli anni 16 con l'autorizzazione del giudice tutelare si può anche contrarre matrimonio praticamente, ma ecco, in quei casi lì ha poca importanza. Cioè lei dice ha poco senso, esatto, e comunque non salva dall'avvenuta violenza, non tutela. Comunque non tutela il minore fino in fondo, sicuramente. Grazie a Ugo Pastore, lui è il presidente del Tribunale dei Minorenni, il procuratore capo dei Tribunali Minorenni di Bologna. Diamo ora la parola agli ascoltatori. 800 24 00 24. Rachid, buongiorno. Buongiorno, Rashid. Rashid, scusi. Sì, buongiorno a lei. Innanzitutto l'OCOI non presenta tutti noi musulmani in Italia, non presenta neanche il 50%, e non il primo punto. Secondo, le informazioni che state dando sono il 99% sbagliate, perché sono pochissimi casi nella comunità pakistana, una cosa limitatissima. Io giro tutta l'Italia col camion, vengo dal Marocco innanzitutto, sì, e giro col camion. Le informazioni qua sono falsissime, mm-hmm, è quello che voglio dire. Senta, lei ci ha sentito dire che nella comunità pakistana sono tutti matrimoni forzati? Ci ha sentito dire questo? Perché mi sembra lo suggerisca lei, non... Può anche riavvolgere il nastro e sentire la trasmissione. Se proprio c'è un intento chiaro di questo tipo di informazione, è un intento di emancipazione, di informazione, e non certo di scagliarsi contro una comunità che tra l'altro ha nominato lei da marocchino. Corregga comunque gli errori, ha la possibilità di farlo. Corregga. No, ho detto sono casi limitatissimi. Sì. Quali sono le informazioni false che abbiamo dato, Rashid? Su questi matrimoni sono tutti imposti. Quando abbiamo detto tutto questo, noi stiamo parlando di casi specifici, non abbiamo mai parlato di una totalità dei casi, non capisco perché. È una goccia nel mare, è pochissima roba. Il Veni non fa notizia al mare, da quel poco male fa notizia. Comunque, falso quello che stavi dicendo. Certo. Non è vero. Certo. Grazie, buongiorno. Grazie Rashid. Buongiorno Abdel, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io ora sto parlando lo stesso con quello che sta parlando Rashid. Sì. Io correggo perché l'Islam vero non inforza mai alla ragazza di sposare questo o l'altro o l'altro, mai neanche 0,0001. Per me di secoli. Anche qua in Italia, gente straniera o in Francia, così, ti do un esempio, se sarebbe mia figlia. Io non guardo italiano, francese o tedesco, quelle, basta che lei accetta, però per una condizione che sarebbe musulmano. Grazie, grazie ad Abdel che ha chiamato da Bergamo. Khadija Del Monte, dunque è molto delicato naturalmente fare informazione su questo tipo di problematiche perché poi si è accusati di sensazionalismo anche quando si sta molto attenti a non cadere in quella trappola. Allora, l'Islam, visto che è stato nominato da ascoltatori islamici che hanno chiamato al 349-238-6666, cosa ha a che fare? Noi finora abbiamo parlato anche di cultura roma. Abbiamo parlato di India, dunque anche di induisti. Cos'ha a che fare? Chiariamo alcuni punti. Sì, dal punto di vista della dottrina islamica, della giurisprudenza islamica, il matrimonio richiede la libertà dei contraenti e quindi di per sé non c'entra per nulla. In realtà alcune tradizioni hanno aggirato questa norma. E io penso che sia derivato in particolare dall'importanza dall'esagerazione dell'autorità del padre nelle famiglie, no? Nelle società tradizionali, per cui i figli sono chiamati ad avere una specie di obbedienza cieca, non dal punto di vista della religione, proprio dal punto di vista culturale, ecco. E quindi impropriamente delle volte nella testa delle persone si confondono i limiti tra religione e cultura, ecco. Quello che è culturale diventa una specie di religione, diventa un tabù, una cosa da dover seguire, altrimenti certo. Emarginati. Certo. E questo è il lavoro che vogliamo fare noi, dalla nostra parte. Il lavoro va fatto a diversi livelli, no? A livello legislativo sicuramente bisogna punire gli abusi e mettere delle leggi che comunque ostacolino, no? Come quello che diceva lei, che del richiedere il consenso quando uno espatria, insomma, che di dichiarare che si deve sposare, non risolvono il problema. Siccome è un problema culturale, va affrontato a diversi livelli. Uno di questi livelli è anche quello religioso, cioè bisogna cercare di incontrare le famiglie, di creare una mentalità, di sorpassare una mentalità chiarendo appunto che dal punto di vista religioso l'Islam assolutamente è contrario a questa cosa. Ci sono anche dei testi, per esempio degli hadith, no? Che sono i fatti detti del profeta, in cui ci sono delle donne già all'epoca profetica, quindi centinaia di anni fa, che si sono ribellate a questo costume. Si sono rivolte direttamente... Mio padre mi ha voluto sposare una certa persona, io non volevo, e il profeta... le ha sciolto il matrimonio, quindi già da allora si era chiarito che il matrimonio non deve essere imposto. Purtroppo poi nel cammino che ha fatto la religione, impastandosi con le culture, no? Queste cose sono state dimenticate e hanno prevalso le usanze culturali. Noi facciamo questo lavoro di dire che appunto l'Islam è assolutamente contrario a questo. Chiaro, chiaro, è molto importante poi che venga appunto degli islamici. Io le ricordo tra l'altro, Khadija, che anche in Italia fece scalpore, per esempio il nome di Franca Viola, era una ragazza di 18 anni di Alcamo in Sicilia che venne rapita e si ribellò di fatto al matrimonio riparatore, aiutata dal padre, un padre in questo caso non tradizionalista, fece arrestare il suo aguzzino che l'aveva violentata per poi sposarla secondo le usanze italiane. Cioè in Italia non siamo lontani comunque da questo tipo di mentalità che lei ha fatto bene a ricordare, ha più a che fare con l'autoritarismo dei padri a volte che con la religione. Raul Dauli, vorrei concludere con lei, sindaco, per tornare alle esperienze pratiche. Queste ragazze che lei ha dovuto tutelare, a scanso di equivoci, dove erano state portate? ci sono storie molto diverse. Alcuni casi ho gestito il rimpatrio, quindi persone e ragazze portate proprio nel loro paese d'origine. In alcuni casi sono riuscite loro a ritornare a Novellara sotto un accordo familiare, e poi come sono arrivate a Novellara mi hanno chiesto protezione. In altri casi, soprattutto nei casi di minori, invece siamo riusciti anche a intervenire in tempo, mettendo in protezione il minore. Vorrei anche dire che il fenomeno è anche molto più complesso, perché riguarda anche forme di, come dire, di forzatura, anche di dramma familiare, anche nel caso degli innamoramenti, non solo del matrimonio forzato. Noi abbiamo molti ragazzi, anche maschi, molte ragazze che si innamorano tra di loro, perché è un fenomeno normale, naturale, anche, anzi è un segno che la città sta bene, perché le persone si apprezzano per quello che sono, e spesso questo sottopone il genitore a un dramma, perché magari la figlia si è innamorata dell'italiano o il pakistano dell'indiana o cose di questo tipo. Per cui l'appello che voglio fare è investire tutti insieme in un processo culturale. Non abbiamo 50 anni di tempo davanti per aspettare che le nuove generazioni si insegnino, ma dobbiamo bruciare le tappe se vogliamo costruire una città migliore. Sì. Grazie al sindaco Raul Dauli, che addirittura ha rischiato un'accusa pesante, cioè di favorire l'immigrazione clandestina, quando ha sollecitato presso un'ambasciata, avete notato con quale delicatezza evita, proprio per puntare il dito contro certe nazioni o certe culture, di nominare e fare riferimenti precisi, e si è visto quasi arrestare per aver sollecitato dei visti e dei permessi di soggiorno per tutelare questi minori. Grazie a Peter Bescapè in regia per il la pronta sottolineatura musicale, grazie ad Alessandro Marco Tulli, Alessandro Longoni, coautori di questa trasmissione, da Irene Zerbini, l'appuntamento a lunedì mattina alle 7:15. Buon weekend.